Allora, che c'è di nuovo? La cosa che fa ridere, ma che è difficile ridere su queste cose, però noi ridiamo sui giornali che parlano di queste cose, perché mentre fino a poco tempo fa, ricordate, la stampa, ma anche la televisione, cioè tutti i media, erano a seguito della condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo alla situazione in cui lo Stato italiano teneva i detenuti e le detenute, i giornali parlavano anche a sproposito, dicendo un po' di cose sul sovraffollamento, la mancanza di servizi, eccetera. Poi è successo che a seguito di un leggero svuotamento si è passati da 69.000 nelle carceri a 57 mila, quindi 10, 11, 12 mila detenuti in meno, che sicuramente è una boccata d'aria, però insomma è sparito il problema del sovraffollamento e si parla di un'altra cosa. Indovinate di che si parla su tutti i giornali, la televisione? Sul lavoro. I detenuti devono lavorare, questo è un problema. Oggi, per esempio, sui giornali di oggi, dando una rapida scorsa ai media che stanno in edicola stamattina, sono circa 10, ma forse anche di più, gli articoli che parlano del lavoro dei carcerati. Addirittura una cooperativa di detenute di San Vittore e di Bollate fanno da tempo ricamo, cioè sartoria, hanno messo su, grazie appunto ad una agenzie di moda, hanno messo su addirittura una loro mostra, diciamo, delle attività. Poi in varie parti alcune aziende come IKEA sta mettendo lavorazioni dentro il carcere, e insomma la questione del si parla del scusate, quel po' di raffreddore oggi fa parte della stagione, quindi ce lo portiamo un po' tutti appresso, perlomeno chi ce l'ha è inutile che si lamenti. Dunque addirittura appunto hanno messo su delle lavorazioni interne, così si fanno anche una bella fisionomia, diciamo, no? Una bella pubblicità, perché aiutano i più deboli, gli ultimi, e quindi questo suona bene, però soprattutto a loro interessa perché li pagano di meno i detenuti. Le persone in carcere vengono pagate molto al di sotto del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori esterni e le lavoratrici esterne. Ma c'è un altro fatto ancora più importante: chi lavora, il detenuto o la detenuta che lavorano in carcere o comunque anche in situazioni di, diciamo, di misura alternativa, articolo 21, semi libertà, lavoro all'esterno, eccetera, non sono liberi di fare come gli altri lavoratori. Gli altri lavoratori possono organizzarsi in sindacati, in comitati, in assemblea, cosa che lo fanno, perlomeno oggi un po' meno, però insomma qualche tempo fa lo facevano, oggi hanno ripreso un po' a farlo in alcuni settori, quindi può contrastare, controbattere le posizioni del padrone, diciamo, di colui che c'è in mano l'azienda per cui lavora, può rivendicare miglioramenti salariali, riduzione d'orario, modificazione dei ritmi di lavoro, cioè può contrattare qualunque cosa, poi sta nel rapporto di forza se riesce a ottenerlo oppure no. Questo può fare il detenuto, tutte queste cose non le può fare il detenuto e la detenuta che lavorano, non può fare, non può organizzarsi in assemblea, non può fare sciopero, non può, cioè, è praticamente una macchina da lavoro e basta. Questo fa ingolosire molto coloro che producono, i padroni, chiamiamoli industriali, imprenditori, chiamateli come volete, l'essenza è quella. Ne ha parlato pure di questa faccenda di mettiamoli a lavorare questi detenuti oziosi, con un po' di spregio, no? con una dose di sufficienza e di dispregio, come per dire questi detenuti fanno gli oziosi, vengono mantenuti dallo Stato, non fanno niente, stanno sbracati tutto il giorno in branda. A parte che non è così, comunque se fosse un fatto piacevole ci sarebbe la ressa per entrare in carcere, e in realtà non è così. Non è ozio quello che si passa in carcere, l'ozio è un'attività scelta. Io posso scegliere, per esempio stasera, oggi pomeriggio o domani mattina, di oziare o andare a lavorare o fare altre cose. Posso sceglierlo, certo pagando un prezzo: se non vai a lavorare perdi il salario, rischi anche una sanzione disciplinare, se non vai a fare, che so, a pagare la bolletta, a fare quello che devi fare, poi però sei libero comunque di farlo. In carcere non è libero nessuno di farlo, perché se non non va a lavorare lo chiudono, cioè perde quella possibilità di uscire per andare a lavorare, quindi quella boccata d'aria. Insomma, quindi il lavoro in carcere si sta, ne parlano tutti, che bello, da una parte fanno le birre qui a Roma, una cooperativa di birrai ha messo a lavorare detenuti e hanno messo dei nomi un po' strani a queste birre, no? Fine pena, queste cose qua, e tante altre lavorazioni. Allora, adesso perché si parla? Queste cose c'erano già prima, se ne parla adesso, perché non, sembra quasi che sia un unico giornale, la varietà dei giornali, che poi sono tanti, anche di diversa, così dicono loro, no? Chi è di destra, chi è di centro, chi è di sinistra, centro-sinistra, tutte le articolazioni possibili e immaginabili. Loro dicono che sono diversi tra di loro e quindi ognuno ha una sua posizione, ma chissà perché quando si parla di carcere sono pressoché tutti omogenei. Questo è un bel problema che noi invitiamo tutti a studiare il perché. E insomma, parlano adesso, si parla molto di lavoro. Questa settimana articoli di lavoro esaltando, belli, lì fanno una cosa, lì stanno facendo un'altra, lavori socialmente utili. Se n'era appunto qualche, ma nemmeno meno di un mese fa, anche la trasmissione, una delle più seguite, ritenuta una delle più efficaci, diciamo, di tematiche, come Report, se n'era occupato. Però oltre che appunto insultare i lavoratori per il cosiddetto ozio, proponeva i lavori socialmente utili ma gratuiti, quindi i lavori forzati. E abbiamo fatto una piccola critica ricordando a coloro che gestiscono la trasmissione Report che il lavoro gratuito dei detenuti, quindi il lavoro forzato, è un residuo di circa 150 anni fa, cioè intorno o circa 100 anni fa è stato abolito in tutti i paesi, nell'inizio del Novecento in tutti gli stati europei e comunque anche quelli, insomma, un po' più civili, è stato abolito il lavoro forzato, cioè il detenuto che lavora gratis. Perché? Perché il lavoro gratis è giustamente ritenuto schiavitù. C'è questo elemento di schiavitù nella carcerazione. C'è perfino nelle tesi, negli elaborati dei maggiori riformatori, quelli che passano per essere stati grandi riformatori, da Thomas More al Beccaria, che riprende molte tesi di Thomas More, appunto il lavoro, l'attività in carcere è simile alla schiavitù. Difatti lui chiedeva l'abolizione della pena di morte perché è poco disincentivante, poco deterrente verso chi vuole commettere reati, e invece incentivare il carcere, perché il carcere è questa schiavitù sbattuta in faccia alla gente che sta fuori. La gente lo vede non una volta sola, come l'esecuzione della pena di morte, dura qualche ora e è finito lì. No, il carcerato, se c'ha una lunga carcerazione, sta sempre lì in carcere, lo si vede, lo vedono gli altri cittadini, vengono quindi disincentivati da fare reati perché vedono questa schiavitù permanente che rimane là. Quindi usa proprio questo termine, Bentham, Beccaria, tutti i grandi riformatori del Settecento, ma che si rifacevano anche un po' a Thomas More, a quelli del Cinquecento. Insomma, l'area riformatrice, gli altri proprio dicevano butta la chiave, falli morire in carcere. I riformatori invece proponevano il lavoro come emenda, come tentativo di emendarsi del peccato fatto tornare e rieducarsi e risocializzarsi e rientrare da bravi e onesti lavoratori dentro la società. Perché questa società sembra che dica, e lo dice nei fatti, che non accetta altri che non gli operosi lavoratori che accettano il magro salario, accettano una vita di stenti, accettano i sacrifici per mantenere alto che cosa? La ricchezza del paese, non la loro, perché a loro non arriva niente, la ricchezza del paese e dei ceti alti, dei gruppi alti, delle classi alte di questa società. Vorrebbero questo e vogliono questo, perché chi si distanzia da questo, che so, fa il vagabondo, il barbone, oppure va a rubicchiare, eccetera, viene immediatamente espulso dal consesso civile. E insomma, quindi il lavoro inteso come schiavitù, quindi lavoro costretto, è un po' una caratteristica del carcere, anche perché al lavoro si assegna, cioè queste persone, no, assegnano il ruolo appunto di emenda, di rieducazione, di risocializzazione. Attraverso il lavoro chi ha commesso un crimine diventa una brava persona. Questa è un po' un'affermazione molto idealista e non riscontrata, non c'è nessun riscontro materiale del fatto che il lavoro faccia uscire diciamo dalla cosiddetta criminalità i detenuti, chi ha commesso un fatto. I fattori che inducono una persona a muoversi fuori della legge sono tantissimi, veramente tanti, e i più grossi e anche diversificati, ciascuno lo può fare per motivi diversi dall'altro, però c'è un elemento comune a tutti coloro che trasgrediscono la legge, che si pongono fuori la legge, ed è una cosa semplice: il fatto che le condizioni materiali legali non permettono di vivere, e quindi non, per esempio, prendete quelli che perdono il posto di lavoro oggi, lo perdono e hanno anche un'età o comunque lo cercano per tanto tempo, non lo trovano, quindi si rendono conto che loro non possono vivere, perché senza un salario, un reddito non si vive in questa città, e allora si ingegnano a procurarsi un reddito non con le normative o le vie legali, perché quelle sono chiuse, completamente chiuse. Provate a domandare a tutte le persone che vanno a cercare un lavoro e non lo trovano, sono chiuse quelle strade, quindi ne cercano altre, e sul terreno extralegale qualcosa si trova, con rischio di finire in galera, e ci finiscono alcuni, ma non tutti. Considerate che i dati ufficiali di questo paese dicono che, l'Istat lo dice, che intanto i delitti gravi come gli omicidi sono in netta diminuzione, quest'anno stanno ovviamente il 2013, perché si conclude l'anno diciamo sottoposto a controllo, ma dicono che il 2014 sarà ancora in quella tendenza, cioè c'è una diminuzione costante da 40 anni a questa parte, da 60 anni a questa parte, degli omicidi, dell'aggressione alle persone, dei reati violenti, che quest'anno tocca il record di più bassi livelli di omicidi e di aggressione alle persone nei 150 anni di storia dell'Unità Europea, 150 un po' di più. L'Unità d'Italia vede in questo periodo il numero più basso di crimini e reati contro la persona. A differenza di altri paesi, dove per esempio in Inghilterra c'è una crescita invece dei reati contro la persona, le condizioni di vita evidentemente sono più gravi, e anche in altri paesi, pure in Francia, in Germania si è stabilizzata, insomma, praticamente come omicidi e reati contro la persona, in Italia è il più basso, è un buon livello, è uno dei più bassi numeri in percentuale alla popolazione, si fa in percentuale ogni 100.000 abitanti, altrimenti in assoluto è assurdo, perché chi ha più popolazione chi ne farebbe di più di chi ha meno. Quindi l'Italia è uno dei paesi che ha meno delitti contro la persona, sono in decrescita fortemente, nonostante ciò c'ha un numero, è tra i primi paesi invece a livello di carcerazione. C'è qualcosa che non funziona, ovviamente, e questo lo vediamo anche nel discorso del lavoro. Questo del lavoro, appunto, che il lavoro possa rieducare le persone, portarle sulla strada giusta, non c'è bisogno dei giuristi, degli analisti della situazione carceraria che lo affermano. Se le persone trovassero un lavoro buono, diciamo non massacrante, e con un buon salario, sceglierebbero sicuramente quella strada, come fanno quelli che lo trovano, che trovano un lavoro buono, insomma, a volte faticoso. Oggi non può, buono è difficile trovarlo, si trova sempre con un buon livello di sfruttamento, quello sì, e con un magro salario, però come vedete chi trova quello si astiene poi da fare attività estralegali. Il problema è chi non trova quello, quindi i motivi che spingono una persona a cercare attività estralegali sono tante e va bene, quindi non è un po' una ideologia balzana questa di pensare che il lavoro permette alle persone di ritrovare la giusta strada abbandonata, anche perché queste attività lavorative di cui parlano i giornali in questi giorni, che si fanno adesso, la carcerata l'accettano volentieri, perché significa uscire un po' dal carcere o comunque dalla cella, insomma fare una vita leggermente più movimentata di quella bloccata in cella, che è tipica di chi sta in carcere, quindi l'accettano di buon grado, ma quando finiscono il carcere, escono fuori, quel lavoro non rimane perché spesso è dato da queste situazioni che appunto lo fanno per aiutare la persona detenuta a andare in misure alternative, in semilibertà, oppure per farlo uscire prima dal carcere, dopodiché rientra nel cosiddetto mercato del lavoro, che è uno dei, probabilmente è il più violento, è il sito più violento che c'è oggi in questo mondo, perché il mercato del lavoro è quello che dice: più è alto il numero dei disoccupati, e più per il datore di lavoro, per l'imprenditore, per il padrone va bene, perché può mantenere bassi i salari, in quanto chi prende il macrosalario lo accetta, purtroppo spesso lo accetta sapendo che c'è il ricatto di chi sta fuori dai cancelli perché non lavora. Cioè il padrone dice: se non ti accontenti di questo salario basso, io faccio presto, ti butto fuori a te e prendo quello che sta fuori al cancello, che non aspetta altro che venire a lavorare. Questo è il dramma della situazione italiana. Il copione che ha porta solo a tu. Guardami, parole che non so venderti, ci sei o ci fai per credermi, per chiudere un punto d'intesa, oh no. Guardami, parole che non so venderti, cambiare le carte, credimi, non rappresenta il mio stile, oh yeah. Guardami, parole che non so venderti, ci sei o ci fai per credermi, per chiudere un punto d'intesa, oh yeah. Guardami, Allora, 15:24, vogliamo parlarvi a questo oggi, a questo punto, visto che è uscita poche ore fa la sentenza di primo grado per i quattro attivisti del movimento No TAV, Claudio, Nicolò, Mattia e Chiara, arrestati quasi un anno fa, era il 9 dicembre dello scorso anno del 2013. Furono arrestati, ricordate bene, perché erano attivisti e lottavano come gli altri del movimento No TAV, gli altri e le altre, una grossa composizione maggioritaria della popolazione della Val di Susa, che non vuole quella porcheria intrisa di mafie, di impicci, di imbrogli che è il No TAV, che tra l'altro distruggerebbe quella valle, metterebbe in movimento un sacco di capitali poco puliti, diciamo così. Già il capitale non è mai pulito, però questi sono proprio, diciamo, mafiosi, per essere più chiari, e insomma e facevano tutta la popolazione da ormai 10 anni lotta con manifestazioni pacifiche, ma anche con attività per impedire, per bloccare i cantieri che stanno distruggendo quella valle, quindi con attività, diciamo, dirette, con fermare le scavatrici, tagliare le reti, interrompere queste cose qui. Loro avevano danneggiato, o almeno così dice l'accusa, un compressore che serviva proprio a fare alla trivella, e furono venne fuori una cosa tremenda, cioè i giornali perché fecero uno scandalo tremendo, perché la procura l'aveva accusati di, appunto, aver danneggiato questo compressore e gli aveva dato l'aggravante di terrorismo. Cioè, uno che ha danneggiato di per poco una macchina, un compressore, è una macchina da 4 soldi, anche abbastanza vecchia, e qui l'accusa era di, no, finalità di terrorismo. Non si capisce perché uno non vuol far passare la TAV, il TAV, come la chiamate, quella porcheria che distrugge la valle, e insomma, qui vengono accusati di con finalità di terrorismo. Sull'ira di Dio, la stampa si buttò giù pesantemente. Per fortuna poi la Corte di Cassazione aveva derubricato, tolto la finalità di terrorismo, comunque messo in dubbio che quelle prove, anche quegli indizi potessero manifestare quella cosa là. Vabbè, poi la cosa è andata avanti, stanno in carcere. Prima sono stati messi in un carcere pesantissimo, quello di, appunto, in cui c'avevano tutto bloccato, la censura eccetera, in elevato indice di vigilanza, A1, A2, A3, AS1, AS2, AS6, vabbè, queste qua. Sta di fatto che oggi è uscita la sentenza, era prevista per il 17, infatti oggi è 17 dicembre. La procura aveva chiesto molti anni, nonostante fosse stata derubricata la finalità di terrorismo, comunque per ora il primo grado ha visto soltanto condannati a 3 anni e 6 mesi, 3 anni e mezzo, che quindi notevolmente ridotto rispetto all'accusa e anche a questa soltanto, quindi ha individuato il reato. Ha detto il reato di terrorismo non sussiste, esistono solo i danneggiamenti, danneggiamenti e anche la detenzione di armi da guerra, nella fattispecie bottiglie Molotov. Ormai sapete, da un po' di tempo le bottiglie Molotov vengono fatte, cioè le bottiglie di benzina, niente, vengono assimilate ad armi da guerra, e questo ha fatto lievitare il numero. Comunque ha detto così il tribunale. Allora, Claudio Alberto 23 anni, Nicolo Blasi 29 anni, Mattia Zanotti 29 anni, Chiara Zenobi, i quattro attivisti No TAV, accusati di aver messo a segno un attentato contro il cantiere della Trevigila, vabbè, questo è quello che dice la cosa, e l'accusa, cioè la sentenza dice: utilizzando bengala, bombe carta e quasi anche, appunto, in bottiglie Molotov, però insomma il primo grado, 3 anni e mezzo da questa montatura, sicuramente è una sconfitta per la procura. È grave, 3 anni e mezzo per giovani che lottano per una causa giusta, che in Italia ce ne, dovrebbero essere i giovani così, visto che poi, poi si lamentano gli stessi giornali perché vedono giovani buttati lì nello spaccio, nel degrado, nell'aggressione eccetera. Beh, chiaro, se quelli che si muovono su una corretta attitudine, attività, poi vengono condannati al carcere, sta di fatto comunque quell'impianto accusatorio è completamente crollato. Speriamo che e tra l'altro quello che loro avevano fatto, tutti e tutte gli attivisti del movimento No TAV, ma tutti, veramente tutti, comprese le signore di 80 anni e gli uomini di 90, cioè tutti quanti, avevano rivendicato, hanno detto: c'eravamo anche noi quel giorno, quella notte, a fare quel piccolo sabotaggio, cioè impedire a una macchina di funzionare, che non è tutta questa grande cosa. Vabbè, questa è la cosa. Comunque già intanto è una sconfitta dell'atto accusatorio. Noi sono sicuro che il movimento che ha sostenuto loro sicuramente li continuerà a sostenere, e quindi in appello probabilmente vedranno ulteriormente ridurre questa condanna e quindi vedere in prospettiva la possibilità di uscire a carcere. Poiché appunto qualche giorno fa c'è stato, no, cadeva l'anno del loro arresto e dell'inizio di questa grossa montatura giudiziaria, chiaramente dei compagni di Milano, delle compagne di Milano che si chiamano Radio Cane, che fanno una radio ma che viaggia soltanto per web, ne abbiamo già mandato in onda qualche loro attività, qualche loro intervista, anche questa volta hanno ricordato l'anno, quel 9 dicembre 2013, esattamente l'anno scorso, in cui fu montata questa grande messa in scena contro i quattro attivisti notati. Ve la facciamo sentire perché anche per così, per ricordare oggi, e oggi che oggi hanno avuto la condanna a 3 anni e mezzo. Sassi contro la regione e il comune, traffico in tilt, stazioni occupate, la protesta dei forconi paralizza Torino e crea disagi in diverse province, timori anche per domani. Per gli attentati nel cantiere TAV di Chiomonte, 4 persone arrestate con accusa di terrorismo, appartengono all'area anarchica, per la procura potevano uccidere. Sono usate anche bombe incendiarie che potevano uccidere nel violento attacco al cantiere di Chiomonte nella notte tra il 13 e il 14 maggio scorso. Ora 4 militanti No TAV sono stati arrestati dalla Digos tra Torino e Milano, tra le accuse quella di terrorismo. Giorno baveri e sciarpe sono stati alzati a coprire il viso, si è capito che la manifestazione fino a quel momento pacifica sarebbe degenerata. Hanno attaccato le sedi di Equitalia, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, arrivati in Piazza Castello contro la regione. Bombe carta, sassi, mattoncini, hanno danneggiato auto delle forze dell'ordine, spaccato vetri di entrata di Palazzo Regionale. La polizia ha reagito con lacrimogeni, la tensione è salita, un carabiniere è rimasto ferito, un fotografo è stato aggredito, fuggi fuggi generale. Gli organizzatori di L'Italia si ferma hanno cercato anche fisicamente di mettere a terra i provocatori. La protesta non è rimasta nei limiti della legalità, 14 feriti tra le forze dell'ordine, blocchi generalizzati su strade e ferrovie. Il lungo applauso finale con molti V, ma la traviata di Verdi alla Scala è iniziata con un minuto di silenzio in onore di Nelson Mandela. Mandela combatte con scioperi e manifestazioni, viene arrestato più volte fino al 1964, quando con l'accusa di sabotaggio e alto tradimento viene condannato all'ergastolo nella prigione di Robben Island. E c'è una frase di Nelson Mandela che mi ha colpito in questi giorni: il nostro giocare in piccolo non serve al mondo. Bengala, razzi, bombe carta, pietre e bulloni, poi le Molotov, una, 10, 20, quell'attacco alzò la posta. A Torino arrivò subito il ministro dell'interno Alfano per un vertice in prefettura. Le indagini per tentato omicidio, la pista delle intercettazioni e l'identificazione delle prime voci. Dopo 7 mesi gli arresti, 4 tra Piemonte e Lombardia, tutti anarchici. Per la prima volta le accuse di attentato e terrorismo, oltre alla detenzione di armi da guerra. Nel primo pomeriggio, saranno state le 14, mi hanno caricato su una Renault Laguna per portarmi a Torino. In macchina c'erano 4 di Gotti e, a differenza del viaggio verso Almanno, non mi hanno messo le manette. Il viaggio ha avuto dell'incredibile, un giorno te lo racconterò e ne rideremo. Per ora mi limito a dirti questo. Prova ad immaginare una macchina piena di poliziotti con un arrestato che deve attraversare una città, Torino, completamente bloccata dai forconi. Immaginati corse pazze in corsie d'emergenza, sbirri costretti a scendere dalla macchina per far spostare i cassonetti. Ti dirò, ci sono state un paio di circostanze in cui ci ho fatto un pensierino. Magari con un po' più di intraprendenza non sarei qui. Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Va peggio, va meglio, non so dire, non lo so. Vuoto, pieno, pieno, vuoto. Avrebbero voluto, portandoci via 4 compagni in quel fottuto 9 dicembre, aprire un vuoto, scavare un buco nei rapporti affettivi, traumatizzare la comunanza di intenti che si declina nella resistenza e nella lotta. Nulla di nuovo, a ben vedere, giacché l'armamentario di chi mira a colonizzare territori, cervelli, esistenze è sempre lo stesso. Hanno riempito quel vuoto col carico da 90 di accuse assurde, terrorismo e attentato alla vita umana, condito con le briscoline di innumerevoli provocazioni, aula bunker, gabbie, ipotesi di udienza in videoconferenza, e poi censura alla posta, blocchi dei colloqui, scorte ai giurati, e poi falsi allarmi e scoop giornalistici, e infine gli arresti di luglio ai danni di Lucio, Graziano e Francesco, sui quali, a un anno esatto da quel 9 dicembre, uomini col cuore troppo vicino al buco del culo rilanciano col loro meschino gioco. Salve, Dave. Sono qui con voi per parlarvi di condutture. Le condutture della vostra casa vi sembrano vecchie e fuori moda? Perché non le cambiate? Central Service vi offre una vasta gamma di modelli dalla linea nuova ed elegante, ciascuno dei quali disponibile in centinaia di colori diversi per meglio soddisfare le vostre esigenze. Non perdete tempo. Recatevi subito alla più vicina sala d'esposizione di Central Service. Ricordate, Central Service, la garanzia di un grande nome. E in rappresentanza del Ministero delle Informazioni abbiamo qui il viceministro, l'onorevole Eugene Hess. Buonasera, David. Signor viceministro, cosa c'è dietro questo aumento del numero di attentati terroristici? Una mancanza di sportività. C'è una sparuta minoranza di persone che sembra avere completamente dimenticato i vecchi valori di una volta e non riesce a sopportare l'idea di aver perso la sua battaglia. Se queste persone accettassero le regole del gioco, otterrebbero molto di più dalla vita. La scena degli anarchici, una ventina, divisi in tre bande. Collegate fra loro da una regia centrale, con ripartizione di compiti, con tecniche di intervento che si possono serenamente definire paramilitare. L'inverno del nostro scontento. Sei qui e non lo sei, tu che mi dici tu e noi rispondiamo noi. Gli affetti violentati cercano l'intraprendenza necessaria. Vorrebbero mettere il chiavistello al campo del possibile. Ma sento, dico, giuro in cuor mio, no, impossibile è questa impossibilità. Ed è subito primavera. Ha un nome delicato, ma il contenuto è aspro. Lavanda è una rivista anarchica. Spulciando l'ultimo numero si possono leggere le direttive per il cambio di strategia dell'ala più dura dei Notav. Bonjour, sono la Roma Lavanda. Dagli scontri diretti con le forze dell'ordine ai sabotaggi, ed è quello che puntualmente sta succedendo. 13 attentati incendiari dallo scorso luglio, 2 solo questa settimana, tattica suggerita, attacchi notturni e discontinui per sorprendere il nemico e infliggere danni. Più che un articolo, quello di Lavanda sembra un manuale di guerra che incita a colpire nuovi bersagli, ditte e imprese coinvolte nel cantiere dell'alta velocità, forze dell'ordine e alberghi che le ospitano. Fare del territorio un'arma, lo slogan di chi gioca in casa. Su tutte le balze, lungo i sentieri alpestri, nelle inclinature terrose delle scogliere, sempre laddove la montagna è più asciutta e soleggiata, fiorisce una pianta profumata. La lavanda dal fiore viola azzurro. Allora squadre di donne, vecchi e bambini s'affaccendano alla raccolta, che deve durare pochi giorni affinché il fiore non perda la sua volatile essenza con la quale si fabbrica il ben noto e delicato profumo. Yippee-i-oh. Ora l'offensiva continua con una parola d'ordine nuova, sabotaggio, inceppare gli ingranaggi della TAV colpendo al cuore un'intera economia. Tutti. Sì, anche te, saluta tutti. Mi è mancato un casino. Bella. Ciao ciao. Ciao bello. Ciao ciao ciao ciao. Con una verde milonga il musicista si diverte, si estenua. Mai sapienza collettiva, composizione singolare di affini e disparati, ha saputo così efficacemente applicare l'antico principio taoista della reversibilità del vuoto e del pieno. Una solidarietà così, col suo profluvio di lettere, telegrammi, cartoline all'indirizzo dei nostri quattro, con le mille scritte stampate sui muri, virtuali e materiali, o in volo, leggere, in cielo, con la creatività dei suoni, dei gesti, delle azioni. Una solidarietà così ha saputo saturare quel preteso buco nero, contrapponendo la concretezza della vita a quell'astrazione al quadrato materiata nel carcere speciale. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Pazzi hanno subito quella torsione che mette a contatto il fuori con il dentro, il qui con l'altrove, la valle con la città. Gesti e parole hanno soquadrato gli schemi prescritti, creando un dove dal sapore magico, al contempo ubiquo e utopico. Un luogo fatto di potenza, in cui la vita e il possibile trovano una nuova misura del vuoto e del pieno. Così, al piano accusatorio, si è contrapposto il vuoto, con una strategia difensiva tecnica e politica che, non cedendo di un millimetro alla lagna innocentista, non si è nemmeno irrigidita nella solidità ideologica della rivendicazione militante. Molto più di quanto apparisse. Le sentenze parlano una lingua che non ci appartiene, ma sappiamo che l'accusa di terrorismo si è svuotata tra un rinvio della Cassazione e il rifiuto del riesame, con quelle due carogne che vi si attaccano in maniera residuale, come cani gelosi di un osso rosicato. Ma anche, fuori dalla pantomima del dibattimento, nel ragionare collettivo su terrorismo di Stato e sulla legittimità del sabotaggio. Il tempo della vita è un'eterna primavera. Ricordo che tra le tende di quel campeggio echeggiava una canzone, tra le tante inventate per divertirsi e darsi forza, sulle note di un vecchio canto partigiano. Il primo verso recitava: dai boschi di Giaglione uniti scenderemo. In questi anni molte volte è stato dato seguito e rilanciato quelle parole, e qualcuno in quella notte di maggio ha deciso di farlo con altrettanta convinzione, e io ero tra loro. Una delle voci dietro quel telefono è la mia. C'ero quella notte ed era anche mia la voce femminile che è stata intercettata. Il 13 e 14 maggio ho preso parte al sabotaggio avvenuto al cantiere della Maddalena a Piemonte. Ecco svelato l'arcano. Che fossi lì per manifestare una volta di più la mia radicale inimicizia verso quel cantiere, e se possibile sabotarne il funzionamento, ve lo dico io stesso. Esiste un motto in Val di Susa, che da anni è entrato nel bagaglio comune della nostra nottata e ne orienta nella pratica le azioni di disturbo al cantiere. Questo motto è: si parte e si torna insieme, a significare che in questa lotta ci si muove insieme. Insieme si parte e insieme si torna. Nessuno va lasciato indietro. A questo servivano i telefoni quella notte. A questo si sono prestate le nostre voci. Le dichiarazioni di Chiara, Claudio, Mattia, Nicolò hanno avuto il merito di nominare, con poetica semplicità, le cose per quello che sono. C'eravamo tutti, ci siamo e ci saremo. Quattro nomi: tu, lui, lei, voi, noi. L'impersonale è politico. Your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Torniamo in diretta, come avete visto questo tentativo di ricostruire un po' il clima. C'erano in quei giorni, c'erano i forconi, c'era proprio il potere politico era imbestialito contro le opposizioni popolari che facevano, cercavano di opporsi ai provvedimenti dementi e criminali che i governi facevano e le classi dirigenti facevano, e così hanno inscenato questa montatura che però parzialmente sta accadendo a pezzi. 3 anni e mezzo hanno avuto in primo grado i 4 attivisti, anche vedremo gli altri 2 che sono stati arrestati successivamente, e insomma la cosa si sta un po' smontando. Poi probabilmente nel secondo grado avranno ancora degli sconti. Allora vediamo ancora che c'è ancora. Ovviamente parlando di carcere ci sono solo brutte notizie, se no, oppure appunto fumi ideologici, fumisterie come quella del lavoro, queste baggianate qui. C'è invece questo fatto molto grave che però perlomeno hanno avuto, che dire, l'onestà di pubblicarlo. Il Senato americano negli Stati Uniti d'America ha fatto una inchiesta durata molto tempo, abbastanza approfondita, e ha tirato fuori tutte le torture o maltrattamenti, ma vere e proprie torture che la CIA avrebbe fatto nei confronti dei prigionieri di Guantanamo, e è venuto fuori un faldone di non pare 2-3 mila pagine, una cosa tremenda, in cui vengono fuori dei metodi ripugnanti, osceni, veramente paragonabili ai nazisti, a quelle ai francesi in Algeria, cioè le cose più tremende fatte. Anche gli italiani hanno fatto queste cose quando tentavano di colonizzare la Libia, l'Eritrea, la Somalia, l'Etiopia. E insomma, la cosa drammatica, vabbè, è venuta questa cosa, il governo si è scusato, poi è cominciato un dibattito negli Stati Uniti d'America sul fatto se è necessario oppure no, anche in situazioni di gravi emergenze, usare i metodi di tortura. Bene, il direttore della CIA ha detto: sì, è vero, abbiamo usato dei metodi ripugnanti, però abbiamo ottenuto dei risultati. Praticamente ha affermato che attraverso il metodo della tortura hanno ottenuto delle informazioni, non si sa se questo è vero, anzi molti inquirenti magistrati negano questo fatto, però la CIA ha detto: sì, è vero, abbiamo usato metodi ripugnanti, criminali, osceni, barbari, però abbiamo ottenuto delle informazioni che hanno permesso di evitare altri attentati. Questa è la giustificazione della CIA, che vuol dire che in situazioni particolari di emergenza si può usare la tortura. E qui veniamo in Italia, questa è l'America, stiamo in America, criticabile eccetera, arriviamo in Italia, però negli Stati Uniti d'America c'è il reato di tortura, per cui si può parlare di tortura, e perché farla, perché non fatta, cioè. In Italia non si può parlare perché non c'è la tortura, in Italia non c'è una legge nel codice penale che punisce il reato di tortura, le attività chiamate tortura. Nonostante l'Italia abbia 50 anni fa e oltre abbia firmato la convenzione dell'ONU che vietava l'uso della tortura, non ha messo ancora nel proprio codice penale una legge che vieta la tortura. La tortura è un reato specifico non delle persone, dei cittadini, ma esclusivamente e specificatamente delle forze dell'ordine, punto. Quello dice l'ONU e quello i paesi che l'hanno accettato hanno messo. Vietato per le forze dell'ordine che hanno in possesso loro un cittadino, una persona, fare maltrattamenti, torture o anche vessazioni psicologiche volte a ottenere una confessione o un qualcosa, una notizia. Non si può fare questa cosa qui. E invece in Italia è stata fatta, ovunque viene fatta, però in Italia nemmeno hanno il coraggio di mettere il reato di tortura. Adesso stanno facendo un papocchio tra la Camera e il Senato, si rimbalza un disegno di legge che vieta il reato di tortura, ma che non è quello secondo la declaratoria, cioè come l'aveva spiegato bene l'ONU e che l'Italia aveva firmato, ma dice semplicemente: quando una persona viene sottoposta più di una volta, non si capisce perché più di una volta, quali sono le volte che c'è a un certo punto si ferma la pratica di tortura, poi ricomincia, che significa? Quando una persona sta in pieno possesso di un gruppo di forze dell'ordine che l'hanno catturata e tenuta in pieno possesso, e cominciano a maltrattarla, lo stato di tortura è permanente, perché quella persona vive nel terrore, perché sa che in ogni momento può venire fuori un personaggio in divisa e imporgli qualche sofferenza. Non c'è un inizio e una fine, non c'è un due volte, tre volte o quattro volte. Lo stato di tortura è una condizione permanente. Che per esempio poi, vabbè, l'isolamento in carcere, l'isolamento, il 41 bis sono tutti attribuibili alla tortura, perché sono volti a ottenere delle confessioni, che è vietato. La democrazia per sua definizione non vuole accettare pressioni psicologiche o fisiche per ottenere confessioni da parte delle persone tratte in arresto. Questo l'hanno detto quelli che si sono battuti per costruire le democrazie. Poi le democrazie nella loro pratica materiale quasi tutte, e vogliamo essere buoni nel dire quasi tutte, l'hanno smentita, cioè la praticano in realtà. In Italia ancora di più. In Italia è l'ultimo paese da questo punto di vista in cui la praticano, ma non lo dicono nemmeno, perché non c'è la tortura. Voi sapete il fatto più eclatante, perché massicciamente numeroso, quello della Diaz dopo le manifestazioni contro il G8 a Genova nel 2001, numerosi, centinaia di casi di tortura, sevizie, maltrattamenti, non è scattato la tortura perché non c'è. Ma poi ancora negli anni 70 le torture sono state tantissime, fatte nei metodi più tremendi, il waterboarding, le violenze contro le donne, vabbè, insomma, non c'è però questo reato, che non si può procedere, e non lo faranno nemmeno questa volta. In America almeno hanno avuto il coraggio di tirarla fuori, qualcuno ha detto: però era giusto farlo perché così abbiamo ottenuto delle informazioni, altri hanno detto: fate schifo, e insomma perlomeno il dibattito attraversa la società. Qui in Italia sono venute fuori oltre quelle di Genova, anche quelle degli anni 70, ormai sono venute fuori perché alcuni praticanti di questa tortura hanno confessato. Probabilmente ormai in avanzato stato di età si sentivano vicino alla morte e per pulirsi la coscienza hanno detto: sì, è vero, abbiamo torturato. E nessuno ha detto niente. Non è che c'è stato un dibattito nel paese. Questo paese è completamente acefalo, nel senso che non ha cervello nella popolazione, sta a, come dire, applicandosi alla situazione in cui la gente non ragiona più, così, ma sta così a bocca aperta aspettando che qualcuno gli mette qualcosa in bocca per parlare. Non ha più capacità di ragionare, ed è grave tutto ciò, cioè è una situazione di degrado totale. L'altro, e lo diciamo come titolo, poi lo affronteremo successivamente, l'altro grave dato è quello degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, i manicomi criminali, di cui la legge, la 81 del 2014, del primo aprile, non è, non perché il primo aprile si dice, no, è il, è una falso.